Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. All'Europa non riesce il rimbalzo, giù tutte le borse, spread a 400 punti, dalla riunione del G20 timori per una recessione. Un militare italiano morto in Afghanistan, due feriti gravissimi, forse un incidente stradale. Dai laboratori italiani del Gran Sasso la scoperta che rivoluziona la fisica, i neutrini più veloci della luce. Calcio scommesse sospetti su 150 partite italiane d'estere, contatti con la Camorra. Una buona giornata dunque da Simone Spezia, dalla redazione di GR24. In apertura ancora l'economia e ancora i mercati, perché dopo un'apertura in positivo le borse hanno virato con decisione al ribasso, non tanto Milano quanto le altre piazze europee. Deborah Rosciani, è così? Sì, è così, e c'è da registrare proprio un netto calo, poi vi do le performance dei listini, dei titoli industriali. Questo è un segnale chiaro di come il mercato sia spaventato dalla prospettiva di una ricaduta in recessione, che a questo punto ci si aspetta un po' di chiarezza. Da questo punto di vista, se gli organismi internazionali lo dichiarassero palesemente, forse il mercato potrebbe tranquillizzarsi. In questa situazione di incertezza gli investitori hanno ripreso a vendere pesantemente, e anche oggi, almeno a giudicare da quello che sta accadendo in questo momento, da quello che precipitosamente è accaduto negli ultimi minuti, appunto, sembra essere una giornata destinata a chiudersi di nuovo con delle belle legnate sul mercato azionario. Parigi sta perdendo il 2,44%, in avvio rimbalzava di circa un punto. Franco forte, meno 2,76 in questo istante, Londra meno 1,47, Milano meno 1,37%. Il rimbalzino c'era stato ad inizio seduta, ma sembrava già non particolarmente convincente. Ci si aspetta a questo punto l'esito dei grandi macro appuntamenti del fine settimana, la riunione della Banca Mondiale, del Fondo Monetario Internazionale, del G20, per capire se ci sono prospettive chiare, appunto, di indicazione di questa ricaduta in recessione o meno. C'è da segnalare anche un'altra cosa, che questa mattina ha movimentato la seduta delle banche europee, perché le autorità europee stanno valutando, una circostanza smentita pochi minuti fa, la possibilità di imporre un'immediata ricapitalizzazione delle 16 banche europee che hanno passato di poco gli ultimi stress test di luglio. Ci sarebbe fra queste banche anche il Banco Popolare, appunto, in Italia, ma poco fa a quanto pare questa indicazione sarebbe appunto stata smentita. L'Unione Europea ha detto nessuna accelerazione in previsione dei programmi di ricapitalizzazione. Lo spread è di nuovo a flirtare con i 400 punti base e di nuovo in arretramento netto anche l'euro sul dollaro a 1,34,63. Simone. Grazie Deborah Rosciani, questo il quadro della giornata in Europa. Nel frattempo a Washington, come già ci accennavi, è riunito il G20 e l'allarme per una nuova recessione si fa via via più consistente. Il primo risultato che Christine Lagarde ottiene da paesi europei che siedono al G20 è l'impegno ad adottare tutte le misure necessarie per preservare la stabilità del sistema bancario e dei mercati finanziari. E non è da poco, visto che ormai sono settimane che il neo direttore dell'FMI va in giro a dire che alle banche europee mancano 400 miliardi, minate come sono dalla presenza nelle loro casse di titoli di Stato di paesi come Grecia e Italia, il primo a un passo dal baratro, il secondo con un livello del debito fuori controllo. Stando al Financial Times, la BCE starebbe già valutando di imporre la ricapitalizzazione alle 16 banche che hanno superato per un soffio gli stress test. La pressione generale va dalle difficoltà sui listini degli istituti francesi alla stretta che gli istituti italiani stanno trasferendo sul credito alle imprese. A Washington la crisi tiene banco e la recessione, intravista nelle parole del governatore della Fed, è sul tavolo. Ma il centro della questione è qua, nel vecchio continente, dove oggi uno dei membri della BCE ha pronunciato la parola interdetta, default. Il fallimento della Grecia è uno degli scenari, secondo Klaas Knot, presidente della banca centrale olandese, e in discussione non c'è solo la capacità del governo greco di fare quanto necessario per evitare il peggio. Da più parti si comincia a dire che potrebbe essere meno doloroso lasciar fallire il paese. Moody's ha tagliato di 2 punti il giudizio delle principali banche elleniche, l'ennesimo colpo per l'economia di Atene. Valeria De Rosa, Radio 24, il sole 24 ore. E a Washington è arrivato, come saprete anche dai giornali di oggi, tra molte polemiche in Italia, il ministro dell'economia Giulio Tremonti. Le tensioni dunque permangono. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno, è così, sentimenti contrastanti nella coalizione di governo, il no dell'Aula all'arresto di Milanese ha confermato l'esistenza in Parlamento della maggioranza di centrodestra, numeri tuttavia inferiori alle attese che hanno fatto storcere il naso a Berlusconi, così come la stessa assenza a Montecitorio al momento del voto del ministro dell'economia Tremonti, un gesto immorale secondo diversi parlamentari del Popolo della Libertà, quello del responsabile del tesoro, un fatto che lo stesso Berlusconi ha preferito non commentare. Fatto sta che il Cavaliere guarda ai prossimi mesi, ora avanti con le riforme tocca a noi portare responsabilmente il Paese fuori dalla crisi, avrebbe detto il Presidente del Consiglio in un vertice con la Lega. Già la prossima settimana tuttavia ci sarà un'altra prova del voto altrettanto delicata, toccherà infatti al Ministro dell'Agricoltura romano riuscire a superare l'ostacolo della richiesta di arresto per concorso esterno in associazione mafiosa. In tutto ciò resta sullo sfondo l'emergenza economica con la necessità di dare nuove risposte ai mercati che continuano a non credere nel nostro Paese, risposte sul lato della crescita ma anche sul lato della spesa, questo nonostante il governo continui a ribadire che non ci sono altre manovre in vista. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta, nel frattempo arrivano segnali negativi anche dal nostro Paese, a luglio le vendite al dettaglio sono diminuite dello 0,1% rispetto a giugno e del 2,4% rispetto a luglio 2010, il dato è dell'Istat che spiega che si tratta del dato tendenziale peggiore dal gennaio del 2010. E ora veniamo alla notizia che sentivate nei titoli, quella che riguarda i militari italiani in Afghanistan e sulla quale ci sono importanti aggiornamenti. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno. Secondo le ultime notizie sono 3 le vittime, 3 i militari morti in Afghanistan a causa di quello che per il momento sembra essere stato un incidente automobilistico e non un attentato. Inizialmente si era già parlato di 3 vittime, poi di una e di 2 soldati feriti in maniera grave, ma il bilancio definitivo da notizia dell'ultima ora è purtroppo salito a 3, un militare morto sul colpo, gli altri 2 dopo il ricovero in ospedale. I soldati coinvolti facevano parte del personale italiano impegnato nell'addestramento delle forze armate afghane. L'incidente è avvenuto questa mattina durante uno spostamento nella zona di Herat dove si trova la base italiana. I militari viaggiavano a bordo del loro mezzo e, come ha confermato lo stesso generale Massimo Fogari, portavoce dello Stato Maggiore della Difesa, si è trattato di un incidente automobilistico, ma ovviamente sono in corso verifiche per capire quale sia stata la dinamica, la causa dell'accaduto. Altri particolari per il momento non si conoscono, così come non sono stati resi noti i nomi dei soldati, e ciò avverrà naturalmente solo dopo che il comando avrà informato le famiglie, cosa che sta avvenendo in queste ore. E per ora è tutto. Grazie Alessandra Schepisi, restiamo sulla cronaca ma ci spostiamo in Italia per la rapina in pieno pomeriggio a Milano e un'anziana che è morta. Questa notte una donna di 81 anni è morta all'ospedale Niguarda di Milano dopo aver subito una rapina. L'anziana Nicoletta Teti è stata trovata nel tardo pomeriggio di ieri in stato di semi-incoscienza su un marciapiede. Secondo gli investigatori, la donna potrebbe essere caduta in seguito ad uno scippo, ipotesi suggerita dal fatto che sul posto non è stata ritrovata la borsetta, dalla quale sembra non si separasse mai. Secondo una sommaria ricostruzione, l'anziana sarebbe uscita per andare dal parrucchiere, percorrendo un percorso abituale lungo cui avrebbe subito l'aggressione. A dare l'allarme al 118 l'inquilino di un palazzo che ha spiegato di aver sentito un tonfo, di essersi affacciato alla finestra e di aver visto la donna riversa a terra. Per conoscere le cause della morte però occorrerà attendere l'autopsia. Il caso si aggiunge ad almeno altre 2 rapine ai danni di anziani a Milano nell'ultimo mese. Anche in questi casi la polizia non è riuscita ad identificare i colpevoli. Barbara D'Amico, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una notizia appena battuta dalle agenzie, cresce fino all'1,5%, prima era dello 0,6%. La probabilità che uno o più frammenti del satellite possano cadere in territorio italiano è quanto emerge dall'ultimo aggiornamento del Comitato Operativo della Protezione Civile sulla base delle indicazioni e delle valutazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico in seguito all'ultimo bollettino emesso dall'Istituto ISTI del CNR. Tornano poi ad essere 2 le possibili traiettorie dei frammenti. In chiusura di questa prima parte, la nostra rubrica sull'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Non registra registrano gli incassi, dichiarano meno e in alcune case addirittura esercitano senza alcuna licenza e senza dichiarare reddito. In più, soltanto lo 0,5% dei tassisti ammette nella sua dichiarazione dei redditi di guadagnare oltre 50.000 euro lordi l'anno. In particolare, le società cooperative, a fronte di un ricavo medio annuo di 600.000 euro, dichiarano in media una perdita pari a circa 9.000 euro. Carmelo Piancaldini dell'Agenzia delle Entrate. Abbiamo una categoria che non è obbligata ad emettere una ricevuta fiscale, allora questo comporta chiaramente una difficoltà maggiore per quanto riguarda l'amministrazione finanziaria per il controllo e la ricostruzione eventualmente del giro d'affari del tassista. Quindi abbiamo un'evasione che, diciamo, un fenomeno di evasione che sono abbastanza diffusi. Sava Sandì, in questo come in altri campi, gli evasori totali e i tassisti abusivi creano non soltanto un danno all'erario, ma anche una concorrenza sleale nei confronti di coloro che sono autorizzati e di coloro che sono in regola con il fisco. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sono le 13:15. Nella prima parte del giornale radio abbiamo parlato dei mercati che non sono riusciti nel rimbalzo. In questo momento il FTSE MIB c'è dell'1,33%, il FTSE All Share dell'1,47%, ma peggio di tutti fa Francoforte, che lascia sul terreno il 2,73%, mentre lo spread tra BTP e Bund a 10 anni è salito a 400 punti. Nel frattempo, dalla riunione del G20 arrivano i timori per una nuova recessione. Abbiamo parlato di Afghanistan, dove tre militari italiani sono morti, a quanto sembra un incidente stradale, ma da questo lato si attendono dettagli. E ora ci occupiamo dell'esperimento sui neutrini. Un esperimento dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in collaborazione con il CERN, in diretta Federico Pedrocchi, che tra l'altro ne parlerà domani nella sua trasmissione Möbius. Buongiorno Federico. Buongiorno Spezia e a tutti i nostri ascoltatori. E allora, in cosa consiste questo esperimento? Che cosa è successo tra Ginevra e i laboratori del Gran Sasso? Oh, intanto hai fatto bene, visto che per noi sono tempi un po' difficili, ricordare che questa cosa nasce ai laboratori di fisica nucleare del Gran Sasso, quindi tiriamoci un po' su, è un bel lavoro fatto qua, naturalmente in collaborazione col CERN di Ginevra. Io l'ultima volta che sono stato lì al CERN, 4 anni fa, sono andato giù dove stavano preparando questo esperimento. Ho detto giù perché si va giù 120 metri e lì c'è il marchingegno che prende un po' di neutrini, un po' tanti di neutrini, dall'acceleratore del CERN che continua a produrne e li spara direttamente al Gran Sasso. Passano sottoterra, ovviamente non gli interessa loro la curvatura, fanno circa 730 chilometri e arrivano esattamente al Gran Sasso dove vengono registrati. Quindi abbiamo una distanza estremamente precisa che può essere misurata per quanto riguarda il tempo di percorrenza. I neutrini che cosa sono? Beh, in questo momento, mentre io e te stiamo parlando e chiunque ci ascolti, siamo attraversati da miliardi di neutrini che arrivano dallo spazio, ma in ogni momento miliardi. Sono degli oggetti forse tra i più evanescenti che possiamo avere sulla Terra, non hanno carica elettrica, la massa è praticamente zero. Si calcola che in un anno dentro il nostro corpo ci potrebbe essere una interazione di un neutrino che riesce a trovare qualcosa che gli impedisce. Dicevi Federico che hanno una massa quasi zero, ma sì, hanno massa e però vanno più veloci della luce. Il punto è esattamente questo. Il problema è che a un certo momento si sono messi a calcolare quanto tempo ci vuole per questo fascio di neutrini, per un particolare tipo di neutrini, per arrivare da Ginevra al Gran Sasso, e hanno visto che ci mettono 60 nanosecondi in meno, cioè vuol dire che vanno più veloci della velocità della luce. Queste sono particelle che si muovono alla velocità della luce. Naturalmente hanno fatto 15.000 lanci e hanno ogni volta cercato di capire, di misurare, per capire se c'era qualche misurazione errata, qualche origine di un errore, e insomma si sentono abbastanza sicuri che questo dato sia un dato di base. Naturalmente adesso viene lanciato alla comunità scientifica e tutti cercheranno di capire di più e di dare il proprio contributo, però il dato c'è. Questo mette in discussione la teoria della relatività. Allora, oh no. Albert Einstein, sì, la mette in discussione in un modo abbastanza strano. Albert Einstein, quando tirò fuori la teoria della relatività, insomma, ebbe un grande coraggio intellettuale e disse, secondo me le cose vanno in questo modo, e quindi inventò, buttò lì sul tavolo delle cose grosse: la velocità della luce è costante, i tempi si accorciano, gli spazi cambiano quando andiamo a grandi velocità. Quando lui tirò fuori queste cose erano solo teorie, poi mano a mano ci sono stati gli esperimenti, si sono arrivate le tecnologie che hanno potuto verificare questa cosa. In questo momento chi ci ascolta in macchina magari sta usando il GPS. Bene, il GPS ci dà una certa precisione quando ci dice fra 300 metri girare a destra, perché si usano correzioni relativistiche, se no noi sbaglieremo anche di 400-500 metri. Quindi la teoria della relatività ce l'abbiamo proprio intorno, e queste correzioni dei GPS, per esempio, presuppongono che la velocità della luce sia costante, non possa essere superata. E qui allora adesso che cosa succede? Possiamo forse dire che questi neutrini che arrivano da Ginevra e al Gran Sasso e ci mettono meno appartengono a un altro mondo? Perché si aprono ipotesi di questo genere, un mondo che è parallelo al nostro. E con questa domanda che ti lasciamo, ti ritroviamo domani in Mebius a parlare di questo argomento, naturalmente, Federico. Certo, grazie, ciao. Grazie a Federico Pedrocchi. Noi cambiamo decisamente argomento e scendiamo decisamente più in basso per parlare della tanto attesa giornata nella quale sono stati diffusi i nomi dei politici presunti gay da parte di un'associazione. Sentiamo. Sono tutti esponenti del centrodestra, fra di loro ci sono anche un ministro e un presidente di regione. Sarebbero tutti omosessuali non dichiarati che però in pubblico avrebbero mostrato comportamenti omofobi. Questo almeno stando a quanto dichiarano gli anonimi blogger che hanno pubblicato la lista dei loro nomi su internet oggi senza però fornire alcuna prova. Di certo si tratta di un'iniziativa che non ha precedenti in Italia, un'operazione di web outing che però sta incassando più critiche che consensi anche da parte di chi è da sempre in prima fila nella lotta all'omofobia, come la parlamentare del PD Paola Concia, lesbica dichiarata. Questa cosa non fa parte della mia cultura politica. Credo che sia anche un po' una resa della politica, no? Cioè, nel senso, è uno strumento, è un modo di fare battaglia politica estremo. Contraria all'iniziativa si è detta anche il ministro delle pari opportunità Mara Carfagna, che parla di bufala, cinica e violenta diffamazione gratuita che non solo non aiuta nella lotta all'omofobia, ma anzi fomenta l'intolleranza. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. 12 sportivi, tra i quali figurerebbero anche nomi noti, sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo antisofisticazione per traffico di sostanze dopanti in provincia di Torino. L'inchiesta è coordinata dal procuratore Raffaele Guariniello. Secondo quanto si apprende, sarebbero coinvolti un'intera squadra di ciclismo dilettantistico e diversi frequentatori di palestre. Sarebbero interessati anche nuoto, calcio e atletica. Emergono nuovi dettagli intanto dall'inchiesta sul calcio scommesse. Con 8 fermi riparte l'inchiesta della Procura di Napoli sulle infiltrazioni della Camorra nei centri scommesse. In carcere due dirigenti Intralot: Maurizio Loper, dirigente nazionale dell'ufficio quote rischi, e Domenico De Simone, direttore dell'ufficio commerciale. Sequestrate dai carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata due agenzie a Piemonte e Gragnano in provincia di Napoli. Sullo sfondo dell'indagine condotta dal PM Filippelli, sospetti su 150 partite di campionati italiani ed esteri, la maggior parte nelle serie minori, ma alcune anche in Serie A negli ultimi due anni, caratterizzate da flussi anomali di giocate. L'elenco delle partite è stato inviato dall'Agenzia dei Monopoli, che ha giudicato appunto anomali flussi di scommesse. Il procuratore aggiunto di Napoli, Rosario Cantelmo, ha riferito che è in corso una rogatoria con un paese straniero e altre ne saranno avviate. Dalle indagini sono emersi contatti tra il clan d'Alessandro Di Martino e alcuni loro referenti in Spagna e Sud America. La DDA, con la procura di Torre Annunziata, sta esaminando il comportamento definito anomalo di alcune tifoserie nei confronti di calciatori di squadre minori. C'è insomma il sospetto che possano esserci contatti con i clan camorristici. Paolo Picone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Sono le 13:22 minuti e 49 secondi. Noi passiamo a parlare di calcio vero e proprio a questo punto, con la presentazione di Ranieri all'Inter. Carlo Genta, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno a tutti. Prime parole di Claudio Ranieri, allenatore dell'Inter, conferenza stampa che precede la sua prima panchina domani alle 18 a Bologna. Ha parlato un po' di tutto. Non avrà Ranocchia, che è stato squalificato 3 giornate, ironia del destino, non avrà neanche uno dei giocatori più chiacchierati, cioè Wesley Sneijder, che si è bloccato oggi in allenamento, però uno dei passaggi più attesi ed interessanti era ovviamente relativo alla domanda sul grande predecessore José Mourinho, con cui c'erano state tantissime battaglie verbali. Sentiamo cosa ha detto Ranieri. No, io non vorrei cancellare nulla, cioè io credo che nella storia dell'Inter sarà indelebile Elenio Herrera, sarà indelebile José Mourinho. Eravamo nemici, ma eravamo nemici anche per i media, per alimentare quelle polemiche, niente più. È un allenatore che ho sempre stimato, ogni volta che ci siamo visti in campo, fuori, a Nyon, ci siamo sempre salutati con molto affetto, tutto qui, insomma, fa parte del lavoro di ogni allenatore difendere la propria squadra. Queste le parole di Ranieri, insomma, allunga la mano a Mourinho e forse gli si allunga un po' anche il naso, questo non lo so, ne parleremo dopo in A Tempo di Sport, ma adesso chiudo perché abbiamo un'altra bellissima notizia da dare. Sì, grazie Carlo Genta, la notizia bella che abbiamo da dare è questa, parliamo di noi. C'era una volta un continente molto povero che si chiamava proprio Continente Povero. State ascoltando povero. Un brano della trasmissione di Radio 24 che ha vinto il Prix Italia. Alessandra Scaglioni, buongiorno. Sì, buongiorno. Era proprio la puntata speciale del nostro programma Chiedo Asilo, che ha come titolo Pollicino e che ha vinto il Prix Italia di quest'anno nella categoria dramma originale. E noi siamo molto contenti, ovviamente, perché il Prix è uno dei premi più importanti per i programmi radiotelevisivi. Hanno partecipato con i loro programmi più di 90 emittenti radio TV da tutto il mondo, dai paesi europei, Francia, Germania, Regno Unito, anche dal nord come Svezia, Finlandia e Danimarca. Tra l'altro i paesi del nord quest'anno hanno fatto davvero incetta di premi, ne hanno vinti una dozzina. Ci sono poi Polonia, Giappone, Canada, Australia, insomma davvero paesi che, emittenti di tutto il mondo. E le sezioni della radio erano tre: dramma, musica e reportage. Radio 24 è stata l'unica emittente italiana a vincere quest'anno nella sezione dramma per l'opera originale, mentre per il miglior adattamento drammaturgico ha vinto la radio pubblica svedese, nei reportage la Finlandia e la Francia e nei programmi musicali hanno vinto la Norvegia e ancora la Svezia. Alessandra, abbiamo 30 secondi, di cosa parla Pollicino? Velocemente, Pollicino è un radiodramma, è realizzato dagli autori di Chiedo Asilo, Gaetano Capo e Marco Drago, è pieno di musica, di suoni e giocato sulle corde dell'ironia. In sostanza prende spunto dalla favola, dalla nota favola di Pollicino, per raccontare la storia di un bambino povero, come abbiamo sentito, che vive con i genitori e sette fratelli in un paese in guerra, decide di emigrare in Europa attraverso una serie di avventure simili a quelle della fiaba originale. Pare che Pollicino profugo riesca a assicurarsi un futuro di libertà e benessere. Il finale in realtà non è proprio così, non ve lo diciamo perché domenica sera alle 20:15 ci sarà una messa in onda speciale del programma, quindi potete andarla a sentire. Grazie dunque ad Alessandra Scaglioni. Chiudiamo con una notizia che arriva dall'estero in questi minuti e che riguarda lo Yemen. Il presidente Ali Abdullah Saleh, tornato oggi in città dopo una convalescenza di 3 mesi in Arabia Saudita, ha proposto alle parti in battaglia una tregua in attesa che venga trovata appunto una soluzione pacifica. Ed è veramente tutto per questa edizione di GR24, condotta e curata da Simone Spezia con in regia Roberto Scaltritti. Il prossimo giornale radio alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.